Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, l'impegno della Regione per il contrasto alla violenza sulle donne, il dibattito sui fondi europei di sviluppo e coesione, alcuni dei question time presentati dai consiglieri in tema di sanità, il bilancio sui primi 5 anni della legge che promuove l'uso della bicicletta. Crescono le donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza delle Emilia Romagna. Nel 2022 sono state 4.990, quasi 60 in più rispetto all'anno precedente. Per oltre il 63% si tratta di donne che hanno subito violenza, soprattutto dal partner, dall'ex partner o comunque in ambito familiare. E sono 3.534 quelle che sono state aiutate a uscire da una situazione di pericolo. L'89% ha subito violenza psicologica, il 65% violenza fisica, il 42% è stata vittima di violenza economica e il 23% di tipo sessuale. Le donne accolte nelle case rifugio presenti in regione sono state 339 rispetto alle 320 del 2021, mentre nel 2022 continua a crescere il numero di uomini in trattamento nei centri per autori di violenza presenti in Emilia Romagna. Sono invece diminuite le chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522, istituito dalla Presidenza del Consiglio. Questi i dati presentati dall'assessora alle pari opportunità Barbara Lori, che hanno fatto da apripista al dibattito in aula. Sentiamo Roberta Mori del Partito Democratico. È un'informativa che ci rende ancora più responsabili di assumere il fenomeno della violenza maschile sulle donne come priorità. La violenza sulle donne è la punta dell'iceberg di un fenomeno che si nutre di discriminazioni e segregazioni quotidiane. Se la società non rispetta le donne, anche i singoli, anche gli individui non la possono rispettare. L'impegno a contrastarla è di tutti. Diversi gli accenti negli interventi dei consiglieri. Ecco Federico Amico, esponente di Emilia Romagna Coraggiosa. È un fenomeno che non riusciamo a sradicare, che ha radici molto profonde all'interno di una cultura maschile. Io credo che anche la componente maschile debba fare la sua parte e prendere responsabilità e merito. Senza questa assunzione di responsabilità, comunque, questi numeri non avranno nessuna flessione, così come si legge anche a livello nazionale. Dalle opposizioni, Valentina Stragliati della Lega avanza una proposta. Sentiamola. Io tornerò a proporre, come feci l'anno scorso, di coinvolgere le farmacie regionali per stampare sugli scontrini il numero 1522 antiviolenza e antistalking. Al termine del dibattito l'Assemblea ha approvato 2 risoluzioni. La prima, firmata dalla maggioranza, chiede al governo di stanziare maggiori risorse per il contrasto alle violenze di genere, mentre alla Regione si chiede di proseguire nelle campagne di sensibilizzazione, operando per far sì che i mezzi di informazione usino un linguaggio inclusivo e corretto su questi temi. La seconda interrogazione, presentata dal Movimento 5 Stelle, chiede infine alla Regione di rivolgere messaggi di sensibilizzazione direttamente a uomini maltrattanti e non solo alle vittime di violenza, e di attivarsi in conferenza Stato-Regioni per inserire nelle scuole l'insegnamento dell'educazione sentimentale e affettiva. Cambiamo argomento. Una comunicazione del sottosegretario alla Presidenza della Regione, Davide Baruffi, ha aperto il dibattito in Consiglio regionale sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell'Unione Europea. Un dialogo in cui giunte e maggioranza hanno chiesto chiarezza al Governo e un'accelerata sui fondi strutturali europei per il nuovo settennato. Alla Regione Emilia-Romagna aspetta una dotazione di circa 1 miliardo di euro. Sentiamo Marcella Zapaterra, capogruppo del Partito Democratico. La valutazione politica è di grande preoccupazione e abbiamo chiesto noi questa informativa da parte della Giunta e chiederemo di continuare ad essere aggiornati, perché dalla caduta del governo Draghi c'è stata un'interruzione nella stipula degli accordi governo-regioni che sta davvero rallentando la ricaduta dei fondi di sviluppo e coesione sui territori che invece ne hanno bisogno. Come Emilia Romagna, per noi gli FSC integrati con gli altri fondi nazionali sono fondamentali per la programmazione, quindi chiediamo di fare presto. Dai banchi dell'opposizione Stefano Bargi della Lega chiede un maggior coinvolgimento nella programmazione della spesa di queste risorse. Oggi però le risorse, ormai la negoziazione è cominciata, noi ci aspettiamo che la Regione sappia coinvolgerci, perché è stato fatto anche in passato e ci sono diverse tematiche che noi abbiamo sollecitato e che dovrebbero essere già finanziate da queste risorse, ma vogliamo essere partecipi anche nella fase di messa a terra di quelle nuove. Rimaniamo in tema. Da qualche giorno è online l'Europa in Emilia Romagna, una piattaforma a disposizione di cittadini, enti locali ed imprese per conoscere meglio l'Unione Europea e le sue tante opportunità, come i bandi, i progetti finanziati e le scadenze per la mobilità all'estero. all'estero. Alla presentazione del portale, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale Arter e oltre 20 organizzazioni dell'Emilia Romagna, abbiamo sentito Lia Montalti, consigliera segretaria dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, delegata ai rapporti con le istituzioni europee. Diventerà uno dei nostri canali di relazione tra la Regione e i cittadini, un modo concreto per portare l'Europa nel territorio in termini di competenze, conoscenze, opportunità e anche di finanziamenti. La nostra Regione è in prima linea e vuole essere sempre di più una Regione d'Europa. E ora passiamo ai question time presentati nell'ultima seduta di consiglio. Numerosi quelli sulla sanità, in particolare Stefania Bondavalli della lista Bonaccini ha chiesto notizie sui tempi di apertura dei centri di assistenza e urgenza di Reggio Emilia e di Correggio. L'assessore Donini ha confermato intanto il rispetto dei tempi, quindi il 20 di dicembre aprirà il CAU a Correggio, mentre il 27 di dicembre il CAU di Reggio Emilia. Devo dire che è un risultato importante che va nella direzione di dare risposte in merito all'appropriatezza naturalmente dei bisogni dei nostri cittadini e anche con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa ai pronti soccorso. Riguardo ai cosiddetti CAU, i centri di assistenza e urgenza recentemente aperti in regione, anche il question time presentato da Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia. Abbiamo chiesto all'assessore Donini conto dei dati degli accessi ai CAU ad un mese di distanza dall'apertura. Questi dati in realtà non ci sono ancora, quindi ci sorprende il fatto che sia l'assessore che il direttore si siano espressi favorevolmente. I cittadini non ci paiono così contenti di questi nuovi presidi che dovevano essere alternativi ai pronto soccorso, ma ci paiono sostitutivi. Siamo preoccupati e continueremo a monitorare. Rimanendo in tema sanità, Pasquale Gerace di Italia Viva ha invece chiesto delucidazione alla Giunta sul cambiamento di orario per le prenotazioni al CUP di Sasso Maggiore, che avrebbe creato problemi all'utenza. Ho ben specificato il fatto che gli orari non erano congruenti rispetto alla necessità dei cittadini. La risposta dell'assessore è stata puntuale, in quanto diciamo ha specificato il fatto che verranno prese alcuni provvedimenti e dopodiché si valuterà se questi si dimostrano sufficienti o meno. Nella sua interrogazione a risposta immediata, Marco Mastacchi di Rete Civica ha invece chiesto spiegazione alla Giunta in merito al presunto depotenziamento dell'ospedale di comunità di Parma. Dal territorio di Parma era arrivata questa segnalazione di un depotenziamento dell'OSCO dell'ospedale di comunità di Parma, che dà risposta chiaramente al territorio, e sappiamo che il territorio è sempre quello che soffre di più rispetto alla sanità. Ho chiesto all'assessore come mai c'era stato questo depotenziamento e sono stato rassicurato, perché l'assessore ha detto che è un depotenziamento che ha una chiave esclusivamente temporanea e che da gennaio tutto riprenderà come prima. Adesso parliamo di mobilità lenta. A 5 anni dall'approvazione della legge per lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità, aumentano le piste ciclabili e diminuiscono gli incidenti, che nel 2022 sono scesi del 6,7% rispetto al 2019, così come si è ridotto di quasi il 50% il numero dei morti, passato da 60 a 32, e quello dei feriti, con un calo di oltre l'8%. I dati sono contenuti nella relazione esaminata dalla Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell'Assemblea Legislativa. Sentiamo Marco Fabri del Partito Democratico. Una clausola valutativa che ci soddisfa perché dimostra la riduzione dell'incidentalità, ma anche l'ampliamento della rete delle piste ciclabili. Sono due gli elementi di preoccupazione che riguardano il finanziamento del grande ciclovie nazionale tagliate dal governo, e infine anche c'è da migliorare molto sul trasporto sui treni e sulle carrozze che devono ospitare sempre più biciclette. Sul tema della sicurezza delle piste ciclabili e sulla loro efficienza ha sollevato critiche Daniele Marchetti della Lega. È sicuramente importante incentivare l'utilizzo della bicicletta per il benessere e per l'ambiente. È chiaro però che oltre a stanziare delle risorse così importanti, la Regione dovrebbe monitorare il loro utilizzo, perché spesso a livello territoriale vediamo realizzate delle piste ciclabili che sono semplicemente disegnate a terra, non soddisfacendo così ai criteri di sicurezza. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati seguiteci sui nostri profili social e sui siti assemblea.mr.it e cronacabianca.eu. Grazie per essere stati in ascolto e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.